e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri. E il nostro domani è sempre nei nostri pensieri, perché ha le radici nell'oggi e per quanto riguarda i denari questo domani fa rima con la pensione. È una rima, come dire, dal punto di vista poetico un po' forzata, però ci sta. La pensione a cui con fatica ci prepariamo proprio negli anni di lavoro, mettendo da parte i nostri contributi, che soprattutto alla luce delle ultime riforme sono determinanti per il calcolo del fantomatico assegno previdenziale, che sarà elaborato proprio sulla base del cosiddetto metodo contributivo, cioè quanti contributi hai versato uguale pensione che porterai a casa. Contributi che naturalmente versiamo anche un po' faticosamente in questi anni in cui il lavoro manca per molte persone. Sappiamo che per alcune categorie professionali il pensiero della pensione è particolarmente doloroso, e allora vogliamo pensare oggi a artigiani e commercianti. Lo spunto ci è arrivato da una novità che non è che sia proprio gradita: l'aumento dei contributi da versare. E allora il 2015 è partito davvero all'insegna di un maggior numero di sacrifici chiesti a determinati professionisti. Parleremo anche delle partite IVA, dei contribuenti al regime minimo. 800 24 00 24, allora mano al telefono per iniziare già a prenotare i vostri interventi su questo argomento, che è l'argomento che abbiamo scelto per la pagina di Denari. Nella seconda parte, dopo il GR delle 12 invece, parleremo della settimana di cardiologia aperte che si svolge proprio a partire da oggi fino a domenica. Una 7 giorni che ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione nei confronti dei problemi cardiovascolari e di tutti gli atteggiamenti e stili di vita pericolosi per il cuore. Sarà con noi il dottor Michele Gulizia, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Anche su questo argomento aspettiamo i vostri quesiti, le vostre curiosità, le vostre domande, ma se volete anche le vostre testimonianze, i vostri interventi all'800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. In alternativa avete le altre modalità per interagire con noi: 349 238 6666 per i vostri sms, e poi naturalmente l'utilizzo, come sempre fate, molto attivo dei nostri social network Facebook e Twitter. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai, bigliettini con gli auguri mi scriverai. Giovanni Parente, per noi non manca mica così poco, perché ancora ce ne abbiamo da trattare, da scrivere, parlare in radio. Buongiorno. Buongiorno. Buon lunedì. Grazie. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, beccato così un po' a bruciapelo a far subito una riflessione sul suo futuro e anche il mio previdenziale. Quando ci andremo, se ci andremo, come ci andremo? Sono tante le domande, lo sappiamo, che riguardano la nostra pensione, e qualche domanda in più. In queste settimane se la fanno i lavoratori autonomi, che anche sul fronte pensionistico hanno una maggiorazione di complicazioni in questo 2015, come se non avessero già abbastanza. Artigiani, commercianti all'ascolto, allora chiamateci all'800 24 0024 per raccontarci la vostra situazione, se avete preso confidenza con le novità che sono arrivate in questa prima parte del 2015, per condividere con noi i vostri dubbi e per fare anche le vostre domande ai nostri ospiti. Giovanni Parente l'ho già salutato, saluto adesso anche Fabio Venanzi, esperto di questioni previdenziali per il Sole 24 Ore. Dottor Venanzi, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. E allora, come anticipato, partiamo proprio da questa notizia dell'aumento dei livelli di contribuzione previsti per artigiani e commercianti. Poi naturalmente raccoglieremo anche questo spunto per fare un punto generale sulle questioni previdenziali per queste categorie. 349 238 6666, se volete scriverci, potete utilizzare anche il canale email cuoredenari@radio24.it, scriveteci su Facebook, scriveteci su Twitter. Giovanni, iniziamo però intanto circoscrivendo un po' il campo. Quando diciamo artigiani, commercianti, a quali categorie ci riferiamo? A tutti gli autonomi, insomma, e queste categorie con che modalità effettuano i loro versamenti previdenziali? Allora, guarda, ho davanti addirittura la definizione che dà il sito dell'INPS di commercianti. Quindi più preciso di così è impossibile. Detto più banalmente, insomma, sostanzialmente il commerciante è il titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, si è organizzata prevalentemente col lavoro proprio ed eventualmente i componenti della famiglia. Poi ci sono una serie di requisiti, ma sostanzialmente è il commerciante e l'esercente, quello che noi identifichiamo come il negoziante e l'esercente. L'artigiano invece è colui essenzialmente che svolge un'attività di produzione di beni, anche se minorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e commerciali, intermediazione, la circolazione dei beni e ausiliari di quest'ultimo. Quindi sostanzialmente è anche il vecchio laboratorio artigianale, chi ha l'idraulico, per esempio, che chiamiamo l'elettricista che viene a casa. Sostanzialmente fanno parte di questa categoria di artigiani. Perché possono essere lavoratori autonomi, possono essere anche dei dipendenti, magari di strutture un po' più articolate, che vengono a prestare servizio, però ci sono anche dei liberi professionisti che svolgono attività libero professionali. Quindi, insomma, sostanzialmente la novità, come ha scritto benissimo Fabio Venanzi in questi giorni sul Sole 24 Ore, è che le circolari IMSS hanno di fatto ratificato questo aumento progressivo dei contributi che era scritto praticamente nelle norme da legge Fornero, ci sono stati anche interventi sulla legge di stabilità dell'anno scorso, e la cattiva notizia, appunto, c'è questo aumento che per il 2015 è di 0,45%, quindi, tanto per intenderci, per gli artigiani si passa... Esatto, come si calcola? Applicato a quale tipo di cifra? Lo 0,45% di che cosa? È uno 0,45% in più che va quindi praticamente a formare l'aliquota contributiva di quest'anno, che per gli artigiani sarà del 22,65%, per i commercianti è leggermente più alta perché si applica uno 0,09% in più, che è l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Quindi c'è una piccola propaggine in più, quindi porta l'aliquota commerciante al 22,74%. Il meccanismo di computo si basa sostanzialmente sulla fissazione di un livello minimale di reddito che viene, appunto, che è stato definito quest'anno in 15.548 euro, e poi nella parte eccedente, cioè c'è un calcolo che viene effettuato sulla parte eccedente, però fino a un livello di reddito che è stato fissato in 46.123 euro. Perché poi per chi superasse quest'ulteriore soglia e andasse fino al massimale, che è circa 77.000 euro, 76.872, se dobbiamo dare i numeri diamoli precisamente, certo, sulle 24 ore o è corretto oppure niente, esatto, c'è praticamente un ulteriore aggravio di aliquota di contributiva che viene appunto aumentata dell'1% tanto per gli artigiani quanto per i commercianti. Dottor Venanzi, tutte queste notizie che ci ha in maniera così puntuale dettagliata elencato Giovanni Parente sono contenute appunto in questa circolare IMSS dello scorso 3 febbraio, quindi freschissima, perché oggi è il 9, è arrivata appena una settimana fa. Ma mi chiedo, e magari se lo chiedono anche molti ascoltatori, perché è stato necessario aggiornare questi livelli di contribuzione? Che cosa significa questa modifica? Siamo sempre nell'ordine del ragionamento del fatto che perché naturalmente è in corso un processo demografico molto importante nel nostro paese, si vive più a lungo, quindi è un po' come se si rivalutassero i cosiddetti coefficienti di trasformazione, per esempio, che sono quei coefficienti che vengono utilizzati per trasformare il nostro ultimo stipendio a primo assegno pensionistico. Adesso non so se ho fatto un parallelo che magari non calza, però ecco, sono adeguamenti legati anche a tutto il processo demografico in corso? Allora, gli adeguamenti sono due. Il primo è quello sui livelli minimali reddituali, dove rispetto al livello dell'anno scorso è stato applicato un aumento dello 0,2%, che è l'inflazione definitiva che è stata accertata dall'Istat nel 2014, e questa inesorabilmente ogni anno la base di partenza, il livello reddituale di partenza cresce. L'altro invece, l'aumento dello 0,45 di cui parlava Giovanni prima, è legato al famoso decreto legge Salva Italia, la riforma Monti Fornero del dicembre 2011, che al fine di garantire una maggiore stabilità alla previdenza pubblica di fatto ha disposto questo aumento graduale di 0,45 punti percentuali per ogni anno, fino a quando l'aliquota, che al momento appunto è il 22,65, non arriverà nel 2018 al 24%. Quindi un maggior finanziamento, un maggior sacrificio, un maggior sforzo chiesto da questi lavoratori autonomi, sia per garantire più stabilità oggi ai conti pubblici, certo, e sia per far sì che loro possano avere una pensione più dignitosa, considerato che siamo comunque tutti oramai nel sistema contributivo. Esatto, tra l'altro avrei voluto chiederle come domanda successiva, appunto, se si trattasse di un aumento una tantum che si limitava quest'anno, invece mi ha già risposto, praticamente avremo questo aumento graduale, scaglionato un po' nel tempo fino al 2018, fino ogni ad arrivare anno al 24%, esatto, complessivo. Da quando scatta, quindi quando dovranno effettuare il primo versamento secondo queste nuove regole gli artigiani e i commercianti, dottor Venanzi? Allora, i termini sono 4 scadenze all'anno, 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e poi il 16 febbraio 2016 avranno la quarta rata e poi congiuntamente al versamento delle imposte nel mese di luglio, verosimilmente, va versato l'eventuale eccedenza rispetto al reddito minimale. Quindi entro luglio di quest'anno saranno chiamati a versare l'eccedenza sulla base dei redditi prodotti e dichiarati in conto 2014. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, noto che ne stanno già arrivando molte. Poi volevo anche leggere la richiesta veramente di aiuto da parte di un ascoltatore al 349-238-6666 che rilancia anche su Twitter, credo che sia lo stesso. Com'è possibile costruire una buona pensione se si è lavoratori stagionali nel turismo da 20 anni, ci racconta Paolo. Paolo, magari facciamo una cosa, quasi come entra in campo immagino anche tutto il tema della previdenza complementare insieme a quella obbligatoria, ci scriva una mail con qualche dettaglio in più rispetto al suo profilo, rispetto alla sua situazione. Abbiamo una rosa di consulenti finanziari molto preparata che ci potrà dare magari qualche dritta per poterle permettere di farsi anche l'assegno di scorta senza svenarsi, perché se uno lavora stagionalmente è chiaro che non lavora per tutti i mesi dell'anno e non ha ogni mese qualcosa da togliersi, da mettere da parte anche per farsi la previdenza integrativa. Cominciamo con le domande dagli ascoltatori, direi di cominciare con Angelo da Pisa. Benvenuto. Salve, buongiorno. Tanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Scusi per la voce, ma purtroppo ho avuto un abbassamento di voce. Ma non ci sembra, Angelo, guardi, ci sembra invece molto molto gradevole, quindi, e quindi quando ce l'ha a posto è squillante, okay. E comunque a cuore denari ha chiamato il contenitore giusto, ci dica tutto. Okay. Le devo dire una cosa, io sono dipendente e quindi da diversi anni, da 15 anni, quindi stanno versando i contributi la mia ditta per conto mio, certo. Per tempo fa, nel 2011, dal 2011 per 3 anni, ho avuto anche però contemporaneamente un'attività mia personale individuale, mm-hmm. Ero un commerciante, praticamente un rivenditore, e ora so che mi è stato detto dal commercialista che mi stanno arrivando delle cartelle da Equitalia perché per i mancati pagamenti di contributi per questa seconda attività. Certo. Il commercialista alla partenza dell'attività mi disse che non era obbligatorio, cioè non era necessario versare contributi per la seconda attività perché la prevalenza come lavoratore era quella da dipendente. Quindi non era necessario versare un doppio contributo, anche perché poi per quegli anni non avrei avuto percepito una doppia pensione per quei 3 anni. Non so se la cosa è giusta oppure no. No, però magari non lo so. Allora io adesso vado un po' a occhio su quello che sarebbe stato necessario fare. Angelo, la ringrazio, comunque sentiamo i nostri esperti. Dottor Venanzi, allora per chi siccome Angelo come dire non è certo l'unico che magari anche se è un dipendente presta delle collaborazioni occasionali, naturalmente per tante altre, io stessa mi viene in mente, faccio la giornalista, sono iscritta, ovvero sono una dipendente, mi chiama a fare 1000 convegni, io ho una gestione separata all'INPG e quindi verso i contributi, ma questo dal primo momento, dottor Venanzi, com'è possibile che questo commercialista gli abbia potuto suggerire di non dover far nulla in allora, questo caso? È possibile? Allora, la questione era un po' controversa fino a qualche tempo fa, in quanto appunto il reddito prevalente di Angelo evidentemente era quello che derivava dal lavoro dipendente. Non è vero però che l'eventuale contribuzione versata in concomitanza a un periodo di lavoro dipendente non faccia maturare una maggior quota di pensione, perché comunque ogni gestione, quindi sia l'assicurazione generale obbligatoria e il fondo pensione lavoratori dipendente, sia la gestione commerciante, al momento del raggiungimento dei requisiti contributivi o anagrafici pagherà la pensione pro quota in funzione della contribuzione versata, quindi non sono contributi persi, comunque daranno luogo, seppur a una minima integrazione, a un importo di pensione più alto rispetto a che se questi contributi non fossero stati versati. Ecco, quindi il tema è che adesso sono arrivate queste cartelle esattoriali e Angelo si deve mettere a posto. Esattamente. A meno che non riesca a dimostrare, ma questo il commercialista dovrebbe andare presso l'INPS e verificare se c'è la possibilità, dubito dal mio punto di vista, di poterle sgravare. Allora, tra l'altro il concetto di reddito prevalente, dottor Venanzi, ce lo spiega adesso in questo caso, era ovvio, Angelo è un lavoratore dipendente, quindi il reddito prevalente derivava da questa attività, appunto dal lavoro dipendente. Se ne può dare una definizione più precisa, peraltro ammettendo che una persona è dipendente per 6 mesi in un anno, altri 3 mesi fa un lavoro appunto autonomo, perché sa, ci sono molte situazioni ovviamente mischiate. In realtà per i lavoratori artigiani è commercianti, la contribuzione a cui sono chiamati non è solo il reddito derivante dall'attività, ma tutto il reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. Quindi in realtà il concetto di reddito tassabile, o meglio di reddito imponibile ai fini contributivi, abbraccia anche altri redditi che esulano dall'attività vera e propria, cioè dal reddito vero e proprio. Quindi l'INPS su questo, ho detto in passato, c'è stato un forte contenzioso, ma oramai la questione si è abbastanza risolta, dove di fatto, salvo casi molto particolari, la doppia contribuzione, come il caso di Angelo, è sempre dovuta. Volevi aggiungere qualcos'altro, Giovanni, rispetto a tutto questo ragionamento? No, perché stavo pensando anche che in un frangente complicato dal punto di vista economico come quello attuale, situazioni come quella del nostro ascoltatore, che risale a 3 anni fa, ma magari ce ne potrebbero essere un po' spalmate sul territorio diverso. Adesso non so, magari uno fa il lavoro dipendente, improvvisamente o l'azienda ti lascia a casa e quindi tu intraprendi immediatamente l'attività di lavoro autonomo, perché chiaramente non vuoi interrompere il flusso di reddito che ti entra in casa. E insomma, come ci si deve comportare, anche mettersi subito a posto con l'INPS, con queste situazioni un po', non dico borderline, ma... Sì, sarebbe l'ideale in qualche modo. Allora, per ragioni di cautela, un consulente, un professionista avrebbe dovuto comunque in qualche modo avvertirlo che c'era un'interpretazione abbastanza... come dire, difficile della norma, e forse cautelativamente farlo versare e poi eventualmente verificare se c'è la possibilità di chiedere un rimborso o quant'altro. Adesso, quando la questione, come diceva il dottor Venanzi, quando la questione è in mano a Equitalia, diventa un po' problematico, non perché il problema sia Equitalia, ma soltanto perché è arrivata a una fase in qualche modo più conclamata. Esatto, anche più onerosa, è più onerosa perché ovviamente le sanzioni sono cresciute. Sanzioni. Quindi magari appunto verificare se non ci siano appunto gli spiragli per poter chiedere uno sgravio, certo. E poi eventualmente cercare una forma di via d'uscita in qualche modo la meno onerosa possibile, optare per una rateizzazione. Ecco, esatto. Tra l'altro, ammettendo che naturalmente il commercialista si sia comportato in totale buona fede, sì. Però voglio dire, se avesse un documento scritto questo ascoltatore in cui ha la consulenza di questo professionista che gli dice: no, guarda, tu non devi versare nessun contributo perché il reddito prevalente è un altro, cioè tutta la spiegazione che gli ha dato, si può anche far, come dire, prendersela un pochino con lui, no, perché mi sembra una strada un po' impervia, ed estrema, che non suggeriamo. Cuore e denari. Ogni anno da 6 anni a questa parte riparte dal 9 al 15 febbraio, quindi da oggi, la settimana di cardiologia aperte, una 7 giorni che ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione nei confronti dei problemi cardiovascolari e di tutti gli atteggiamenti, gli stili di vita che possiamo considerare pericolosi per il cuore. L'iniziativa coinvolge i cardiologi ospedalieri ANCO, l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, e oltre 600 strutture in tutta Italia. Quest'anno c'è una novità molto rilevante. rilevante che possiamo dire di tenere a battesimo noi oggi di Cuore e Denari, si chiama la Banca del Cuore. Ne parleremo oggi per la nostra pagina appunto di Cuore a partire dalle 12 con il dottor Michele Gulizia, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Vedo che vi state già prenotando per intervenire su questo tema all'800240024. Volete sapere se il vostro profilo cardiovascolare è già presente in questa banca dati, come sarà alimentata, che funzione scientifica avrà. Iniziate a prenotare i vostri interventi su questo argomento. Ero l'ultimo degli artigiani e nessuno meglio di me. Artigiani, commercianti, oggi parliamo di coloro che sono già alle prese con una questione che riguarda il futuro, ma con la quale è bene prendere confidenza invece all'inizio dell'attività d'impresa. E questo è il tema della seconda parte di Cuore e Denari. Parliamo della pensione per artigiani e commercianti, perché da questo inizio 2015 si deve versare un po' di più. Sono sempre con noi Fabio Venanzi, esperto di questioni previdenziali per il Sole 24 Ore, Giovanni Parente per il Sole 24 Ore e poi naturalmente tanti dei vostri interventi. C'è una ascoltatore che è Andrea da Verone, che ci scrive al 349-238-6666 commentando il caso che abbiamo ascoltato precedentemente, e ci racconta di essere nella situazione appunto di questo ascoltatore di Pisa, se non mi ricordo male, che ha contribuzione da lavoro dipendente prevalente e ha aperto contestualmente un'attività commerciale. L'INPS ci dice: mi ha sgravato dalla contribuzione per questa seconda attività. Allora Venanzi, forse vale la pena rifare un punto della situazione, sulle situazioni di fronte alle quali l'INPS dice: sai che c'è, se tu apri anche un'attività in proprio contestualmente alla tua attività da lavoro dipendente puoi anche non versare i contributi. Se Andrea da Verona può farlo, perché l'ascoltatore precedente non ha potuto farlo e oggi l'INPS è tornato a ribussare alla sua porta? Venanzi, non ce l'abbiamo, sì, eccomi, qua, eccoci, eccomi, qua. Sì. Allora, come diceva correttamente Giovanni prima, sicuramente la pratica di Angelo da Pisa, che ha telefonato prima, si trova in uno stato molto avanzato. Ci sono casi in cui l'INPS ammette la non iscrivibilità, come appunto poteva essere lo svolgimento di attività lavorativa da lavoro dipendente a tempo pieno, però questa deve essere fatta valere nel momento in cui viene aperta la partita IVA, nel senso che se io oggi apro una partita IVA come commerciante, nella comunicazione per l'attribuzione del numero di partita IVA che si fa alla Camera di Commercio devo comunicare all'INPS, perché la comunicazione appunto si chiama unica in quanto vale poi per tutti gli altri adempimenti connessi all'apertura della partita IVA, devo dire che ho un titolo di esonero per poter non pagare i contributi. In questa fase immagino, se Angelo da Pisa aveva ricevuto la cartella, che comunque o non è stata indicata al momento dell'apertura della partita IVA, oppure ancorché indicata non sia stata fatta poi valere dall'INPS in sede di emissione della... Quindi ecco, quindi magari banalmente il commercialista forse gli aveva suggerito correttamente la strada da percorrere, era vero che non aveva necessità di versare contributi per la sua seconda attività, forse non ha poi espletato tutte le formalità del caso per comunicarla all'INPS. Quindi... Comunque, se ci sono titoli per i quali è possibile poi non effettuare appunto il versamento, ancorché sia arrivata ad Equitalia, il Angelo da Pisa deve muoversi nel bloccare la cartella. Allora, 800240024, un caso complicato, se ci vuole scrivere Angelo magari avremo qualche elemento in più per poterle fornire una consulenza nel nostro possibile un pochino più appropriata. Sentirei Luisa da Bergamo, sempre al nostro numero verde. Luisa, benvenuta. Sì, buongiorno. Premesso che sto esponendo un'ingiustizia per cui ho il cuore a mille, per cui Cuore e Denari va benissimo. Ottimo. Ecco, allora, mio marito è un artigiano, è andato in pensione nel 2008, cioè è andato in pensione nel senso che ha percepito la pensione. Siamo legati a del lavoro artigianale che non si è potuto chiudere, non si è potuto dire ok, vado in pensione, raggiunto. No, perché mio marito ha ancora debiti su un capannone che sta lavorando poco o niente, ancora il figlio è un operaio da sostenere, per cui è andato avanti a lavorare, non le dico con quali... con quali richiesta da parte dello Stato, ecco, me la immagino. Ok. ovviamente ha pagato l'INPS perché il commercialista ha detto tu comunque l'INPS lo devi pagare, i minimali, le 800 euro trimestrali eccetera, il reddito. Dopo 5 anni mi sono permessa di chiedere la rivalutazione all'INPS, mi hanno dato 100 euro al mese, in 5 anni io minimo gliene ho versati 20, loro me ne hanno dati 100. Io sto ancora lavorando, ma non per guadagnare, per pagare debiti, e sto pagando. È normale tutto questo? Ecco perché sono agitata. No, non si agiti, per carità del cielo, Luisa. Guardi, l'importante è che invece per continuare a lavorare, sostenere anche questo figlio, ci si mantenga in buona salute e si riesca ad affrontare con la necessaria anche aggressività e tenacia tutti questi problemi. E allora riusciamo un po', visto che Luisa era anche un po' emozionata del doverci raccontare quella che ritiene essere un po' un'ingiustizia, dottor Venanzi, ci aiuta un pochino a tradurre in termini pratici appunto cosa è successo a questo nucleo familiare. Allora, un artigiano che è andato in pensione, continua a lavorare naturalmente e deve continuare a fare tutti i versamenti del caso. Esattamente, se ha la partita IVA aperta è tenuto al versamento dei contributi e trascorsi 5 anni, immagino come aveva detto la signora Luisa prima, ha chiesto la liquidazione di un supplemento di pensione, cioè una liquidazione considerando anche la contribuzione successiva alla data del pensionamento. Certo, quindi si può fare dopo 5 anni. Allora, se una persona va in pensione, continua a lavorare, a svolgere un'attività di impresa, dopo 5 anni può chiedere un supplemento appunto dell'assegno che già viene percepito. E trascorsi altri 5 anni può richiedere un ulteriore supplemento. Il problema è che non ci sono agevolazioni nella contribuzione, in quanto al momento sono previste delle riduzioni del 50% della contribuzione solo nei confronti di quei lavoratori autonomi con più di 65 anni, quindi bisognerebbe vedere se il marito della signora il Luisa... requisito anagrafico, esatto, come si dice in questo caso. Quindi Luisa, tenga duro naturalmente e magari vediamo se vuole scriverci anche lei, cercheremo di valutare con il nostro Fabio Venanzi un po' meglio anche questo caso, però più o meno abbiamo capito. Beh, già tanto che comunque in 5 anni quantomeno l'INPS ti dice guarda, te lo rifaccio l'adeguamento dell'assegno, perché potrebbe pure dire no, io ti do tutto quanto quando proprio mi dimostri che non lavori più, che hai chiuso la partita IVA. Adesso non so se sia una buona consolazione, però Giovanni è già qualcosa. Senti, a proposito di chi è un po' arrabbiato in questa prima fase del 2015, abbiamo già dedicato una puntata al nuovo regime dei minimi per le partite IVA, no? Che sono partite con questo nuovo anno, anche in questo caso con delle novità. Possiamo pensare ad una concentrazione di maggiori adempimenti? In quali casi alle partite IVA che operano secondo il regime dei minimi appunto devono caricarsi anche di questo nuovo onere contributivo del quale stiamo parlando? Beh, l'onere contributivo riguarda assolutamente tutti quanti, insomma, chi svolge attività di lavoro autonomo. Naturalmente va classificato secondo il tipo di attività svolta, quindi chiaramente chi è artigiano e commerciante sarà interessato da questo ritocco di aliquote contributive. Va ancora peggio per chi è un freelancer, un autonomo che non è iscritto a una cassa professionale, quindi insomma tu hai fatto il caso dell'INPS per esempio con un giornalista, non è questo caso qua, è chi è iscritto alla gestione separata INPS, per cui al momento se non cambia nulla l'aliquota contributiva subisce un vero e proprio schizzamento verso l'alto, perché passa dal 27% al 30%, a cui va aggiunto tra l'altro lo 0,72% come insomma contributo di indennità maternità e altre prestazioni sociali. Quindi insomma al momento è uno dei temi maggiormente che insomma in qualche modo riguardano anche l'agenda politica, non solo l'agenda diciamo, dei versamenti purtroppo delle partite IVA, perché c'è stato molto clamore sul punto, insomma sulle associazioni di liberi professionisti e freelance si stanno facendo sentire, stanno levando la propria voce, e abbiamo scritto su Sole 24 Ore che sterilizzare questo aumento, quindi in qualche modo fare come era stato fatto l'anno scorso, per cui già l'anno scorso ci sarebbe dovuto essere un adeguamento del 28%, fu sterilizzato, è stata mantenuta l'aliquota del 27%, fare in modo che quest'anno non aumenti costerebbe 180 milioni di euro. Quindi è una cifra che lo Stato potrebbe in qualche maniera recuperare dall'altra parte per metterlo. Esatto, il problema è come gestire risorse, a cosa dare priorità, infatti, a cosa non dare. Anche perché ci aggiungo, voi segnalate in maniera molto dettagliata questa mattina in questo affresco realizzato da Francesca Barbieri, come le imprese under 35 stiano sensibilmente crescendo nel nostro paese. Chiaramente quella chiave di lettura è estremamente positiva, una grande valorizzazione anche della capacità imprenditoriale dei ragazzi. Ricordiamoci che spesso questo è l'unica strada che hanno, perché le aziende ancora non è che abbiano ripreso ad assumere in via determinata in maniera consistente, per cui qualche volta la partita IVA molto spesso la partita IVA è la strada obbligatoria per poter lavorare, per cui non vorrei che questo saldo positivo di 67.000 tra aperture e chiusure e il bilancio di Union Camera del 2014 venisse compromesso da questi nuovi e maggiori oneri ed adempimenti appunto fiscali e contributivi che i piccoli i lavoratori autonomi e le partite IVA, insomma i liberi professionisti hanno. Riprendo Carmelo, stamattina è così. Cuore e denari. Stamattina è così, insomma, eravamo pronti con i suggerimenti per chi è in viaggio, evidentemente non ci sono cose di rilievo da raccontare, meglio così, tutto fila liscio sulle strade italiane. Noi riprendiamo la strada di Cuore e Denari ancora con le domande dei nostri ascoltatori. Michele dalla provincia di Barletta, Andria, Trani, diciamo tutto quanto, Michele, così siamo, l'abbiamo proprio brava, molto bene collocata geograficamente, benvenuto. Brava, brava, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti. Senta, io sono andato all'INPS, mi hanno fatto un controllo e mi dicono che dovrò pagare ancora fino a maggio di quest'anno, sì. Poi ho finito, salvo un'altra nuova Fornero, ho finito di pagare i miei contributi. Io pagherò adesso sto mese, poi quello di maggio, come sarà? Come sarà? Sarà uguale a quella di adesso che io pago, o mi stava dicendo il vostro interlocutore che queste del 2015 aumentano? Ah, ecco Michele, perché lei voleva sapere, cioè, ma proprio questa, sì, beffa finale, ma ecco, insomma, mannaggia. L'ultima rata dovrebbe essere Michele, che lavoro fa? Le posso chiedere che attività? È un commerciante, quindi. Grazie mille. Intanto, visto che è arrivato al traguardo, ecco, sì, un'altra cosa. Salvo un altro Fornero, perché no, i sacrifici li abbiamo fatto noi 2 anni senza riscuotere pensioni. Un'altra cosa, io ho versato per almeno 7-8 anni contributi all'Enasarco, perché ero rappresentante, versavo sia uno che all'altro. Perché io li devo perdere quei contributi? Cose che poi ai politici si accumulano. E io li devo perdere, sì, Michele, guardi, questo tema qua se ne occupa tanto Alessandro Milan e Sebastiano Barisoni, noi evitiamo di, come dire, infierire anche su questo argomento di chi, avendo magari lavorato un anno, una legislatura in un'amministrazione pubblica, si porta a casa degli assegni improponibili, e chi invece, come giustamente dice lei, ha una contribuzione ad un ente di previdenza specializzato, questo l'Enasarco, è quello dei commercianti, e non si può far valere. Sentiamo intanto se ci sono le condizioni per poter anche non buttare proprio al vento questi 7 anni. Venanzi, cominciamo da questo aspetto per Michele e poi vediamo se l'ultima rata di maggio che deve pagare la deve pagare secondo la nuova aliquota. Allora, vado a memoria, perché naturalmente la Fondazione Enasarco, essendo privatizzata al pari delle altre casse, non sono a conoscenza, a memoria, di tutti i requisiti pensionistici. Ad ogni modo, l'Enasarco non ha natura previdenziale, ma ha solo natura integrativa, quindi per i 7-8 anni in cui il nostro ascoltatore ha versato contributi all'Enasarco deve obbligatoriamente avere altra contribuzione alla gestione separata, alla gestione commerciante, perché l'Enasarco ha solo natura integrativa. E quindi per potergli fargli maturare un minimo di pensione derivante dalla contribuzione già fatta, quanto ancora dovrebbe versare, Michele, ammettendo che abbia le risorse per farlo? Se non ricordo male, 10 anni? Pensione a 20 anni, se non vado errato a memoria, però su questo, Deborah, non posso metterci la mano sul fuoco, perché va bene, dovrei verificarlo. Allora. Comunque l'aspetto fondamentale è che la Fondazione Enasarco natura integrativa e non previdenziale, quindi è impossibile trovare una persona che ha solo contribuzione Enasarco senza avere per quegli stessi periodi anche contribuzione in qualità di commerciante. Per quanto riguarda invece la rata di maggio, occorre capire quando perfezioni il requisito anagrafico o contributivo per andare in pensione, perché se lo ha perfezionato nel 2014 la rata di maggio che dovrà verosimilmente pagare potrebbe essere quella a saldo, o meglio a presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014. Se invece il requisito viene perfezionato nel corso del 2015, allora dovrà pagare il periodo corrispondente ai mesi che gli occorrono per raggiungere il diritto. Quindi diciamo che in questo caso proprio specifico Michele deve verificare se ha raggiunto il requisito anagrafico per andare in pensione. 800 24 00 24, non abbiamo mai pronunciato, non so se è rilevante ai fini della discussione di questa mattina, la parola DURC. Giovanni Parente, ci stavo pensando stamattina mentre completavamo appunto la preparazione della trasmissione, questo documento che dà la fotografia proprio ad una determinata categoria di lavoratori autonomi del proprio stato contributivo. È un documento molto importante che generalmente deve essere per esempio presentato dalle aziende se vogliono partecipare a degli appalti pubblici. Esatto. No? Anche questo documento ci dà modo di verificare ovviamente quanti contributi abbiamo versato, se siamo dei lavoratori autonomi, è importante ai fini del tema che stiamo affrontando questa mattina? Beh, sicuramente una cartina di tornasole, cioè nel senso che evidenzia quello che è appunto lo stato dell'avanzamento dei contributi versati, della regolarità contributiva, perché è l'acronimo appunto di un documento unico di regolarità contributiva. Come dicevi tu, Deborah, l'importanza è assume importanza soprattutto nei rapporti tra il lavoratore autonomo e la PA, perché nelle gare d'appalto, nelle richieste di forniture è un documento che viene chiesto, che in qualche modo è l'assicurazione che l'autonomo è in regola appunto col versamento dei contributi e quindi può partecipare alla gara d'appalto pubblico e quindi può aver diritto ad aggiudicarsi la fornitura. Molte novità sono state in qualche modo introdotte nel corso gli ultimi anni sul DURC e quindi insomma è bene in qualche modo sempre fare attenzione alla propria regolarità contributiva, soprattutto appunto nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche se insomma qualche vantaggio in termini di alleggerimento degli adempimenti c'è stato sul fronte fiscale, se vogliamo, con l'eliminazione della solidarietà, quella che viene chiamata solidarietà negli appalti per quanto riguarda appunto ditte che operano appalto e subappalto, quindi non c'è più quella stretta che era stata in vigore per alcuni anni. Il decreto semplificazioni fiscali ha eliminato per quanto riguarda appunto la parte tributaria la solidarietà, resta però tutto l'obbligo di essere in regola per quanto riguarda i contributi, anche se naturalmente sappiamo bene come in questi anni di crisi soprattutto queste categorie professionali che si sono molto spesso trovate in difficoltà, la prima cosa che hanno fatto è stata proprio quella di sospendere il versamento dei contributi, perché è inevitabile, magari qualche artigiano o anche un'altra persona alle sue dipendenze, no, l'artigiano non ce l'ha, però voglio dire magari delle imprese molto molto piccole preferisce magari pagare il suo dipendente e magari non gli versi i contributi e poi gli arriva tutto un domino di conseguenze che spesso ha anche dell'imprevedibile. Paolo dalla provincia di Ferrara, benvenuto. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci siamo, benvenuto. Buongiorno Deborah, anche ai suoi ospiti. Grazie, anche a lei. Volevo fare questa domanda. Io ho lavorato all'inizio, io ho 61 anni come ha visto, ho lavorato una decina d'anni come dipendente, poi sono rimasto disoccupato a causa dei problemi di vista che non mi permettevano di trovare lavoro e infine da 20 anni faccio il centralinista non vedente. Quando ho chiesto il mio, come si chiama, l'estratto all'inizio della mia attività lavorativa, adesso non ricordo gli anni perché qui non, mi sono trovato 3 mesi di artigiano. Io non ho mai fatto l'artigiano, non ho mai fatto nessuna partita, io non ho mai fatto niente. Nessuno ha saputo dirmi niente. Un patronato mi ha detto, uno mi ha detto meglio, serve sempre, un altro invece mi ha detto quando farai buttiamo via niente, le hanno detto Paolo, non si sa mai, no? No, più che altro è capire quali azienda. Ma questi tre mesi lei si ritrova in quel periodo in cui era un lavoratore dipendente? Sì, all'inizio della mia, tipo 37-38 anni fa. Però l'altro patronato che mi è sembrato più insomma meglio, un po' più sveglio, mi ha detto guarda, quando tu farai la domanda è meglio che chiedi all'INPS di annullare, di non considerare quei tre mesi, perché ti andrebbero a penalizzare la tua pensione da dipendente. Addirittura bisogna aver pure paura di questi tre mesi. Paolo, beh, intanto lei proprio una sera si deve mettere lì, impegnarsi di costruire tutto il suo albero genealogico praticamente per capire un po' che cosa è successo, dov'era esattamente in quel periodo. Mi rendo conto che è difficile, non mi ricordo neanche cosa ho fatto un anno fa in questi giorni, però magari vale la pena un po' ricostruire. Potrebbe esserci un errore, non so, di trascrizione di informazioni. Dottor Venanzi, che cosa ci suggerisce questo caso? Allora, occorrerebbe verificare se non è un caso di omonimia, magari con nome e cognome uguale ma con dati di nascita diversi. Ad ogni modo, sicuramente è opportuno in sede di liquidazione della pensione non far tener conto di questi tre mesi da artigiano. Quindi questo centro di assistenza fiscale questo patronato gli ha suggerito la cosa giusta, facciamo finta di niente. Ecco, l'unica cosa che però non capisco per quale motivo questi tre mesi lo penalizzerebbero sulla pensione. Tre mesi perché, su un totale di attività lavorativa comunque di 30 anni. Che poi essendo ipovedente avrà comunque le maggiorazioni per l'ipovedente, quindi in realtà l'anzianità contributiva è molto più alta. Ma soprattutto perché i tre mesi da artigiano aumenterebbero limitatamente a quei tre mesi la pensione con un sistema di calcolo retributivo essendo molto remoti nel tempo. Quante situazioni ci sono davvero? Ogni singola storia ha veramente bisogno di una risposta a sé stante, non possiamo proprio veramente generalizzare con nessuno, è incredibile. Mai. Francesco, sì, sul tema pensionistico è incredibile. Riesco a sentire Francesco da Bergamo che sarà telegrafico come la nostra risposta. Francesco, senz'altro, benvenuto, grazie. Dottoressa, buongiorno a lei. Volevo chiedere questo, io ho 68 anni, sono pensionato di già e ho aperto la partita IVA come procacciatore d'affari, quindi verso la contribuzione adesso dal 2012 alla Camera di Commercio, alla Cassa Commercianti. Sì. Però la mia iscrizione come procacciatore d'affari, domanda, avevo chiesto la riduzione del 50% del versamento dei contributi. Non gli è stata accettata, Francesca. Venanzi, perché secondo lei in 10 secondi? Dipende da che tipo di pensione ha. Percepisce già. Francesco, sì. Cuore e denari. Trovati in diretta ancora, buongiorno da Deborah Rosciani. Come ogni anno da 6 anni a questa parte, da oggi riparte fino al 15 febbraio la settimana di cardiologia aperta, una 7 giorni che ha proprio l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione nei confronti dei problemi cardiovascolari e di tutti gli atteggiamenti e di stili di vita che possiamo considerare pericolosi per il cuore. L'iniziativa coinvolge i cardiologi ospedalieri che aderiscono all'associazione ANCO, l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, e oltre 600 strutture in tutta Italia. Quest'anno c'è una novità molto rilevante, si chiama la Banca del Cuore e noi ne parliamo con il dottor Michele Gulizia, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che abbiamo il piacere stamattina di avere con noi. Buongiorno. E a tutti i radioascoltatori. Eccoci qui allora. È molto interessante questa Banca del Cuore, professor Gulizia, perché si tratta di una vera e propria cassaforte virtuale, possiamo definirla così, che sì, tiene al sicuro qualcosa per noi di molto prezioso, il nostro profilo cardiovascolare, il nostro insieme a quello di tanti altri concittadini. Qual è la rivoluzione di questo Bancomart, professor Gulizia? La Banca del Cuore di fatto è una banca virtuale, una banca a cui affidare la nostra salute cardiovascolare sarà una cassaforte digitale sempre a portata di mano che tiene al sicuro tutte le informazioni al nostro cuore. Sarà accessibile anche da internet e conterrà, come già ha detto lei, i dati del profilo cardiovascolare dei pazienti, quindi l'elettrocardiogramma, la misurazione della pressione e soprattutto tutta una serie di dati clinici del paziente, oltre al peso e all'altezza, che permetteranno al paziente di essere rivisti, riscaricati da qualunque dispositivo elettronico che sia connesso a internet. Certo, noi stiamo parlando peraltro al futuro, ma in realtà l'alimentazione della banca dati è già partita, professor Gulizia. Devo dire che circa 10 minuti fa ho ricevuto un sollecito da parte della nostra segreteria, che è in questo momento in connessione con le oltre 200 cardiologie che in fase iniziale, sulle 600 che lei ha menzionato, hanno aderito a Cardiologia Aperta e a fare la banca del cuore, che le card, c'è stato un assalto, abbiamo già stampato più di 20.000 card per questa prima giornata, stanno terminando e stiamo dovendo sollecitare i nostri produttori e le stamperie per far pervenire a tutte le cardiologie altre card per riuscire a risolvere e soprattutto a soddisfare il fabbisogno della popolazione che sta aderendo in maniera veramente entusiasta a questo grande e unico progetto di screening di massa dell'elettrocardiogramma e soprattutto di conservazione, mettendo a disposizione del paziente di tutti questi dati clinici che sinora ancora il paziente non ha mai avuto la possibilità di poter avere, infatti, sempre disponibile. Professor Gulizia, io me lo immagino quasi proprio un po' come il nostro passaporto cardiovascolare. Mi chiedo, contate di raccogliere quante informazioni e in che tempi? Guardi, allora noi contiamo in maniera molto, siamo molto fiduciosi e ottimisti di riuscire entro quest'anno a censire almeno 15 milioni di popolazione, cioè significa tra cittadini che spontaneamente si recano in questa settimana gratuitamente, poi ovviamente quando andranno nella cardiologia di riferimento che rilascia la card con la semplice richiesta del medico per fare il proprio elettrocardiogramma, la propria visita, e sia essi pazienti già cardiopatici sia soggetti che invece vogliono avere il proprio profilo cardiovascolare al sicuro, pronto per essere utilizzato attraverso il Bancomat, che questa card che rilasciamo gratuitamente a tutti quelli che ce lo richiedono, che altro non è che, in analogia con la più famosa carta di debito, il Bancomat, infatti, una card che serve per accedere univocamente ai dati. Desidero proprio sottolineare univocamente, perché la crittografia di tutti questi dati, che sono dati sensibili, dati sanitari del paziente, saranno garantiti da un intreccio fra un codice, un PIN, il codice fiscale del paziente, e la password, che sarà conosciuta esclusivamente dal paziente e comunque anche rinnovabile, rimuovibile dal paziente, che permetterà un accesso univoco da parte dello stesso paziente o, se il paziente lo consentisse, al proprio medico curante o comunque un medico di pronto soccorso in caso di emergenza, per accedere al dato sanitario del paziente, vedere, stampare, visionare l'elettrocardiogramma e conoscere anche la breve anamnesi, se il paziente è scompensato piuttosto che iperteso, diabetico, fibrillante, certo, o dislipidemico. Professor Gulizia, c'è una domanda di un ascoltatore, Fabrizio da Biella, che peraltro stamattina ci ha scritto molto, intervenuto anche nella prima parte di Cuore e Denari, ma chiede con curiosità perché queste informazioni non possono già essere caricate sulla tessera sanitaria, perché è necessario avere una carta apposita, questo Bancomat, che appunto, diciamo, non abbiamo pronunciato in maniera sbagliata, ma è proprio la sintesi di due termini come Bancomat e Heart, come inteso come cuore, poi magari ve lo trascriviamo. Scriviamo anche correttamente, certo, su Facebook. Del cuore proprio per questo, perché il concetto di mettere il cuore in cassaforte, pronto e disponibile in qualsiasi momento e da qualsiasi sito, smartphone, telefono, e rende accessibile il dato da qualsiasi parte. Mettere i dati dentro una card significa averla con un chip. Per poter leggere la card ci vogliono dei lettori di chip che siano tutti uguali. È molto più difficile riuscire a dotare tutti i medici, tutti i pronto soccorsi, tutti i grandi centri di raccolta di un lettore di card che poi nel tempo cambia, quando invece noi abbiamo un grande database immenso, che è quello dell'AMCO, appunto, della Fondazione per il Tuo Cuore, che hanno ideato e promulgato questa iniziativa proprio perché in questo modo così come nella nuvola di internet riusciamo a reperire informazioni, in questo caso dalla banca del cuore in maniera sicura e crittografata riusciamo a reperire le nostre informazioni, non c'è bisogno più di partire e portarsi dietro un elettrocardiogramma, l'ultimo reperto clinico, la terapia, basta portare nel portafoglio il bancomat, questa cartina plastificata che contiene i nostri codici di accesso e con questi molto semplicemente da qualsiasi computer, da qualsiasi telefonino provvisto di connessione a internet possiamo accedere, visionarli, scaricarli e se vogliamo anche stamparli. Professor Gurizzi, allora cardiologia aperta, ammettendo di avere all'ascolto molti dei nostri amici che sono stati stuzzicati un po' da questa iniziativa, stamattina sono interessati a farsi rilasciare il Bancom Heart, che cosa devono fare? Ammettendo anche che ci sia in circolazione qualche persona, mi risulterebbe abbastanza incredibile però, che non abbia mai fatto un elettrocardiogramma in vita sua, no? È possibile che già ci siano delle informazioni una volta che una cardiologia rilascia questa carta, oppure è possibile che addirittura ci siano informazioni a zero sul profilo cardiovascolare della persona? Dopo che il paziente va in una cardiologia, l'elenco delle cardiologie aderenti si possono trovare andando sul sito www.bancadelcuoretuttounito.it e da lì scaricare e vedere qual è la cardiologia più vicina da contattare per andare a fare l'elettrocardiogramma e farsi rilasciare la Bancomat. 10 minuti dopo il rilascio la carta è funzionante ed è visibile e questo consentirà al paziente di collegarsi direttamente, autenticarsi e quindi grattare, perché c'è una parte nascosta della carta che è appunto la password, grattare sulla card come in un biglietto gratta e vinci, scoprire la password, inserirla, se la si vuole cambiare si può cambiare, a quel punto la card è già attiva e questo ovviamente consente al paziente in qualunque momento di utilizzare i propri dati. Professor Gurizzi, a chi è bene che faccia questa carta e chi magari può anche rinviare di farla? È chiaro che la sensibilizzazione che volete fare impone che un po' tutti si attivino, no, alle antenne su questo argomento, però per esempio non so, stavo pensando adesso c'è Marzio da Padova che vuole intervenire, un grande sportivo, stavo pensando che per esempio io l'ho fatto l'elettrocardiogramma appena 20 giorni fa per il rinnovo dell'abbonamento in palestra, per esempio poi ci sarà anche informazione condivisa tra, non so, proprio le strutture sportive per esempio italiane e le cardiologie degli ospedali, professore, insomma ci sarà anche questa condivisione di informazioni? Beh, questo potrebbe essere auspicabile. Lo stato attuale, il dato sanitario, il dato sensibile non può essere esportato e non può essere condiviso con nessuno, è di accesso solo da parte del paziente e ovviamente il paziente firma un consenso informato, noi accediamo solo in maniera criptata e crittografata per fare un'analisi epidemiologica di quello che è lo stato di salute degli italiani, ovvero andiamo a ricercare quelle anomalie, perché il grande vantaggio della banca del cuore è anche questo, che il paziente che fa la card, che ovviamente fa il tracciato e se lo guarda e lo mette in rete, su questo elettrocardiogramma vengono fatte delle analisi perché permette uno screening su quelle che possono essere delle malattie, purtroppo delle cardiopatie geneticamente trasmissibili, di cui lo stesso paziente può assolutamente non esserne a conoscenza, che sono incompatibili con la vita o predisporre a una morte cardiaca improvvisa, cioè un arresto cardiaco che avviene improvvisamente per causa genetica, in pieno benessere senza dare assolutamente alcun sintomo prodromico, e noi ovviamente questo lo vediamo. E allora mi ha chiesto chi sono i pazienti. Allora, tutti i cardiopatici ovviamente mandatoriamente devono avere la card, perché questo significa che se un cardiopatico ischemico, un paziente che ha avuto un pregresso infarto, ma tutti i diabetici soprattutto, non dimentichiamo che il diabete è una malattia cardiovascolare la cui diagnosi si fa mediante la puntura del dito e il dosaggio della glicemia, ma è una patologia che purtroppo colpisce le coronarie, i vasi cerebrali, i vasi periferici delle gambe, tutte le arterie, e quindi questi pazienti facendo la card hanno con sé sempre la documentazione clinica a portata di mano, se dovessero star male possono esibire direttamente al proprio curante o al primo pronto soccorso o al cardiologo di fiducia il proprio elettrocardiogramma di riferimento, che sarà senz'altro utile e indispensabile, certo, quale confronto clinico per vedere se c'è un peggioramento. Ci sono, professor Gulizia, due persone che hanno bisogno di lei, allora io le faccio ascoltare quello che vuole chiederci Nicola da Bologna, a quale do il benvenuto all'800 24 00 24. Nicola, eccoci a lei. Buongiorno Deborah, buongiorno professore. Buongiorno. La mia sensazione è questa: sono diabetico, insulino dipendente, cardiopatico con un FE di 40 e con 4 stand. Purtroppo mi è venuto un calcolo renale e il mio medico curante, dicendo che ho un reni in sofferenza a seguito di ecografia, mi ha sospeso per 7 giorni la cardiaspirina, perché fa 4 giorni faccio la litoscopia, quella roba là. Sto rischiando qualcosa? Grazie Nicola. Allora, professor Gulizia, questa cardioaspirina, che è fondamentale ovviamente per determinate patologie cardiovascolari, che tipo di quanto si può sospendere intanto in un caso un pochino complicato come quello di Nicola? Quanto allora, è tollerabile la sospensione? Nel caso di Nicola, che se non ho capito male è un paziente che ha avuto un pregresso infarto ma non è fibrillante, la sospensione di 4 giorni della cardioaspirina non è un problema, anche perché lui non sta facendo una doppia aggregazione, non ha messo uno stent, diciamo, entro i 6 mesi, sicuramente la può sospendere, perché ovviamente il rischio di sanguinamento per la frantumazione del calcolo è elevata. Certo. Nel caso invece in cui il paziente fosse stato affetto concomitantemente da una fibrillazione atriale, in quel caso aveva senso sospesa l'aspirina, sostituirla con un anticoagulante tipo la l'eparina a basso peso molecolare, ma in quel caso diciamo che il paziente avrebbe già dovuto fare una terapia anticoagulante. Carlo da Roma, buongiorno, incuriosito dalla nostra banca dati, no? Quella della quale stiamo parlando questa mattina. Carlo, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Estremamente curioso, ma una domanda di sotto un profilo puramente pratico. L'inserimento dei dati oggi a seguito di un elettrocardiogramma o di un'analisi qualsiasi nella CARD, in prospettiva, qualunque fosse il malore, il momento di crisi che si dovesse verificare di qui a 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, direbbe poco tutto sommato al medico curante che dovesse intervenire. Quindi lei dice ha bisogno perché dovrebbe ricominciare sicuramente da capo con un nuovo elettrocardiogramma o comunque con analisi attuali. Beh, però intanto si racconta un po' la storia di questo profilo cardiovascolare. Carlo, ha bisogno certamente, soprattutto per certi profili, professor Gulizia, immagino, di update. Assolutamente, ecco. Sì, ma l'osservazione di Carlo è quanto mai opportuna, pertinente. Perché ovviamente noi abbiamo una fotografia di quell'elettrocardiogramma di quel cuore in questo momento. Se il paziente dovesse sperimentare un nuovo attacco cardiaco, un nuovo infarto, ovviamente il paziente poi dopo, perché intanto gli servirà come confronto, proprio perché gli servirà da mezzo diagnostico, ma soprattutto perché oltre all'elettrocardiogramma c'è scritto di cosa soffre il paziente, quindi già in prima battuta al pronto soccorso sarà facilissimo al medico di pronto soccorso capire quali sono le patologie concomitanti, certo, che ovviamente fanno moltissimo, ma a quel punto il paziente dimesso da quella cardiologia, che speriamo che sia una cardiologia che utilizza la banca del cuore, perché si stanno organizzando quasi tutte le cardiologie in Italia, rifà l'elettrocardiogramma che sovrascrive l'ultimo, perché quello diventa l'ultima immagine, l'ultima fotografia di quel paziente, cioè l'ultima fotografia messa in cassaforte dell'elettrocardiogramma di quel paziente con quella determinata patologia. Purtroppo stiamo andando verso la chiusura, ma ho ancora tempo per affrontare con lei quest'altro aspetto che ci solleva un ascoltatore, che è un medico inglese in Italia, ci scrive e chiede: questa banca dati del fattore di rischio cardiaco di ogni persona, cosa serve realmente? Che utilità? Lei prima ci ha anticipato che chiaramente vi serve anche a completamento delle analisi epidemiologiche che fate chiaramente su questo comparto speciale. Quindi, professor Gulizia, se lei dovesse rappresentarcele graficamente, che informazioni oggi abbiamo sullo stato di salute cardiovascolare degli italiani e come queste informazioni potranno essere implementate? Purtroppo le chiedo di risponderci in 40 secondi. Anche meno. Due le condizioni fondamentali: il grande servizio reso gratuitamente a tutti i cittadini italiani di avere una banca virtuale del proprio elettrocardiogramma, del proprio valore pressorio e di tutti quei dati clinici indispensabili morbide e sostanziali per un accesso a un pronto soccorso. L'altro è lo screening ritmologico di condizioni misconosciute e potenzialmente pericolose, metti tutte le malattie dei canali ionici che possono portare a morte cardiaca improvvisa, la fibrillazione atriale, lo scompenso cardiaco, che nel frattempo faremo alla popolazione italiana, dando una sicurezza e una garanzia a persone che magari non sanno di soffrire di una determinata patologia, invece aprendogli gli occhi. Grazie al professor Michele Gulizia, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, per essere stato con noi. Ricordiamo in 2 secondi il sito a cui si possono collegare gli ascoltatori interessati alla banca dati del cuore: www.bancadelcuore.it. Per tutte le informazioni, ottimo, per tutte le informazioni sulla settimana di cardiologia aperte. Allora, per chi ha seguito Radio 24 in questi giorni sa che cosa ci è successo. La puntata di oggi ci ha inevitabilmente rimandato al nostro Fabio, che noi abbiamo perso venerdì proprio perché il suo cuore gli ha fatto questo brutto scherzo. Noi, Fabio, speriamo che dove tu sei adesso sia molto meglio di come non stessi qua. Però insomma hai vissuto la tua vita veramente in maniera incredibilmente di cuore, e noi siamo proprio persi senza di te. Io volevo ricordarlo. A domani.